Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Trovata casa all'angolo di Rue Rumfort, Federico si comprò tutto in una volta, carrozza e cavallo, il mobilio e, da Arnoux, due grandi casse di maiolica per i fiori da mettere in salotto ai lati della porta. Dietro l'appartamento c'erano una camera e uno stanzino. Gli venne in mente che poteva sistemarci Delorier, ma come avrebbe fatto a ricevere lei, la sua futura amante? La presenza di un amico sarebbe stata un bell'impaccio. Fece buttar giù il tramezzo per ingrandire il salotto e adattò lo stanzino a fumoir. Poi, deciso a conoscere una buona volta quella cosa vaga, scintillante e indefinibile che chiamano il bel mondo, mandò un biglietto ai D'Ambreuse chiedendo d'essere ricevuto. Rispose la signora, augurandosi la sua visita per l'indomani. Era giorno di ricevimento. Carrozze erano ferme nel cortile. Due valletti gli si precipitarono incontro sotto la tettoia. In cima alla scalinata, un terzo prese a camminargli davanti. Arrivò alla fine in un ambiente ovale, rivestito di legno rosa e stipato di mobili piccoli e graziosi, che prendeva luce da un'unica vetrata aperta sul giardino. La signora D'Ambreuse sedeva accanto al fuoco e una dozzina di persone facevano cerchio intorno a lei. Si rivolgeva a tutti con la stessa grazia. Se si parlava di un malato, aggrottava le sopracciglia dolorosamente e assumeva un'aria gioiosa se il discorso concerneva balli o ricevimenti. Lei presto sarebbe stata costretta a rinunciarvi per via di una nipote di suo marito, orfana, che stava per togliere di collegio. La sua abnegazione fu molto lodata. Era un comportarsi da vera madre di famiglia. Federico la stava osservando. La pelle opaca del suo volto aveva la superficie tesa e la freschezza senza splendore di un frutto conservato. Aveva una veste di seta grigia, cangiante, col corpetto accollato, come una puritana. Federico le chiese se non sarebbe andata quest'anno nelle sue proprietà di Nogent. La signora non ne sapeva nulla. Lui se ne rendeva conto, d'altra parte, Nogent doveva annoiarla. Le visite aumentavano. E ben presto divenne impossibile tener dietro alla conversazione, e Federico stava per ritirarsi quando la signora D'Ambreuse gli disse: «Tutti i mercoledì, non è vero, signor Moreau?» riscattando con una sola frase l'indifferenza dimostrata fino a quel momento. Federico era soddisfatto, però appena in strada aspirò una buona boccata d'aria. E sentendo il bisogno di un ambiente meno artificiale, si ricordò che doveva una visita alla marescialla. Federico si sentiva addosso una gran gioia di vivere. Faceva degli sforzi per non mettersi a cantare. Aveva bisogno di sfogarsi, perpetrare atti generosi, elargire elemosine. Si guardò intorno per vedere se ci fosse qualcuno da soccorrere, ma in quel momento non passavano poveri e le sue velleità altruistiche si dissolsero. Non era tipo da cercare le occasioni troppo lontano. Poi gli vennero in mente i suoi amici. Il primo pensiero fu per Ussonet, il secondo per Pellerin. L'infima posizione di Dussardier esigeva molta delicatezza, naturalmente. Quanto a Sisi, lo rallegrava l'idea di metterlo un tantino al corrente della sua fortuna. Così scrisse a tutti e quattro che venissero domenica alle 11 precise a inaugurare la sua nuova sala da pranzo e disse a Delorier di portare anche Senecal. Il ripetitore aveva avuto il ben servito dal suo terzo collegio per essersi rifiutato di assegnare premi, uso che considerava assai nocivo al senso dell'uguaglianza. Lavorava al presente in una fabbrica meccanica ed erano 6 mesi che non abitava più con Delorier. Accettarono tutti. Un domestico in lunghe ghette spalancò la porta e apparve la sala da pranzo, rivestita sino a mezza altezza di quercia, con fregi in oro e inquadrata da 2 alte credenze cariche di vasellame. Le bottiglie di vino erano a intiepidirsi sulla stufa. Le lame dei coltelli nuovi luccicavano vicino ai gusci delle ostriche. Dai riflessi lattiginosi dei bicchieri di fine cristallo si sprigionava una sorta di persuasiva dolcezza e la tavola era letteralmente invisibile sotto la selvaggina, la frutta, le impensabili ghiottonerie che lagrimivano. Tutte attenzioni sprecate per Senecal. Cominciò col chiedere del pane rustico, il più raffermo possibile, e l'intrattenne a questo proposito sulla crisi alimentare. Più tardi il discorso cadde sul ballo della marescialla e sul costume di Arnaud. «Si dice che ciurli nel manico quel messere», osservò Pellerin. Il mercante di quadri aveva avuto recentemente una causa per i suoi terreni di Belleville e al presente era socio con altri buffoni del suo stampo in una certa impresa di caolino nella Bassa Bretagna. Dussardier ne sapeva ancora di più. Il suo principale, signor Moussinot, aveva chiesto informazioni su Arnoux al banchiere Lefebvre, il quale gli aveva risposto che lo riteneva poco solido, essendo al corrente di certi rinnovi. Il dessert era finito. Passarono in salotto, che era in stile Luigi XVI, e tappezzato di damasco giallo come quello di Rosanette. Poi Federico fece venire Delorier in camera sua e, tirando fuori dal secretaire 2000 franchi, «Tieni, carissimo, metti via. È il residuo dei miei vecchi debiti. Ma è il giornale?» disse l'avvocato. «Sai bene che hanno già parlato ai Sonnet». Alla risposta di Federico, che per il momento si trovava un po' in imbarazzo, l'altro sorrise storto. Dopo i liquori passarono alla birra, dopo la birra ai grogs e accesero le pipe. Alla fine, erano le 5 di sera, se ne andarono tutti e stavano camminando in fila senza parlare quando Dussardier aprì bocca per dire che Federico era stato un ospite perfetto. Tutti ne convennero. Il Sonnet aggiunse che il pranzo era stato un po' troppo pesante. Senecal criticò il tono futile dell'arredamento. Sisi era dello stesso avviso, mancava di tono nel modo più assoluto. Delorier stava zitto, con i suoi biglietti di banca in tasca. Federico era rimasto solo. Pensava ai suoi amici e sentiva che fra lui e loro s'era spalancato ormai come un grande fossato pieno d'ombra. Gli aveva teso la mano, certo, ma loro non avevano corrisposto alla schiettezza del suo cuore. Gli tornarono alla mente le parole di Pellerin e di Dussardier a proposito di Arnaud. Era sicuramente un'invenzione, una calunnia, ma a che scopo? E gli parve di vedere Madame Arnaud rovinata, in lacrime, costretta a vendere i suoi mobili. Questo pensiero lo tormentò per tutta la notte. Il giorno dopo si presentò da lei. Non sapendo come farle capire ciò di cui era al corrente, le chiese in tono di conversazione se Arnoux aveva sempre quei terreni a Belleville. «Sì, sempre. Adesso è in società per il caolino in Bretagna, non è vero?» «È vero, sì. E la fabbrica va bene, immagino?» «Ma credo di sì.» E vedendo la sua esitazione, «Che c'è dunque? Mi sta facendo paura.» Le disse la storia dei rinnovi. Chinando la testa, lei disse: «Ne dubitavo.» In effetti, Arnoux, sperando in una speculazione, aveva evitato di vendere i terreni e vi aveva messo su dei grossi mutui. Dopodiché, non trovando affatto compratori, aveva creduto di potersi rifare impiantando una fabbrica. Le spese avevano superato i preventivi. Lei non sapeva altro. Federico tentò di tranquillizzarla. Poteva darsi che fossero difficoltà passeggere. In ogni caso, se avesse saputo altri particolari, glieli avrebbe riferiti. «Oh sì, vero. disse la signora giungendo le mani in un gesto di incantevole supplica. Poteva esserle utile, dunque. Eccolo dentro la sua vita, dentro il suo cuore. Comparve Arnoux. Ah, è stato davvero gentile a venirmi a prendere. Federico non seppe cosa dire. Arnoux parlò di cose senza importanza, poi avvertì sua moglie che sarebbe rientrato molto tardi per via di un appuntamento con il signor Udry. A casa sua? A casa sua, certo. Scendendo le scale, confessò a Federico che, essendo libera Rosanette, avrebbe fatto una capatina con lei al Moulin Rouge. E siccome aveva sempre bisogno di qualcuno a cui fare le sue confidenze, pregò Federico d'accompagnarlo fino alla porta di lei. Invece d'entrare, si mise a passeggiare sul marciapiede, tenendo d'occhio le finestre del secondo piano. A un tratto le tende furono scostate. «Ottimo, il vecchio Udry se n'è andato. Buonasera!» Allora era il vecchio Udry che la manteneva. Federico non sapeva più cosa pensare. Da quel giorno Arnoux diventò ancora più cordiale. L'invitava a pranzo in casa dell'amante e in breve tempo Federico prese a frequentare contemporaneamente le due case. Da Rosanette si divertiva. Ci andavano di sera, venendo via dal club o dal teatro, e facevano una partita a tombola. La domenica si giocava alle charade. Rosanette era la più turbolenta. Si distingueva per certe trovate spassose come correre a quattro zampe o combinarsi in modo buffo con un berrettaccio di cotone. Per mettersi alla finestra a guardare i passanti, si ficcava in testa un certo cappello di cuoio pressato, fumava pipe orientali e cantava canzoncine tirolesi. Spesso chiedeva a Federico la spiegazione di una parola che aveva letto, ma poi non lo stava a sentire. Saltava a un altro argomento moltiplicando le domande. A eccessi di allegria succedevano scoppi di una collera infantile. Altre volte si abbandonava ai sogni e allora stava seduta per terra davanti al fuoco, a testa china, abbracciandosi le ginocchia, più inerte di una biscia in letargo. Senza badarci si vestiva davanti a lui, si sfilava con lentezza le calze di seta oppure si lavava il viso con gran sciupio d'acqua, inarcando indietro la schiena come una naiade rabbrividente. E il ridere dei suoi denti bianchi, lo scintillio dei suoi occhi, la sua bellezza e la sua allegria abbagliavano Federico, gli sferzavano i nervi. Madame Arnoux la trovava quasi sempre che insegnava a leggere al bambino o dietro lo sgabello di Marta, intenta ai suoi esercizi di piano. Se stava lavorando di cucito, Federico era felice di poter raccogliere ogni tanto le sue forbici. Tutti i gesti di lei erano maestosi e tranquilli. Le sue piccole mani sembravano fatte per elargire lemosine, per asciugare delle lacrime. E la sua voce, naturalmente un po' sorda, aveva intonazioni carezzevoli e la soavità di una brezza leggera. Non aveva grande trasporto per la letteratura, ma certe sue brevi frasi, penetranti, erano di uno spirito incantevole. Amava i viaggi, il rumore del vento fra gli alberi, le passeggiate a testa scoperta sotto la pioggia. Federico ascoltava con delizia, credendo di scorgervi un principio di confidenza e di abbandono. Frequentare quelle due donne metteva nella sua vita come due musiche diverse. Una bizzarra, focosa, divertente, l'altra grave e quasi religiosa. Vibrando insieme, crescevano di continuo e a poco si mescolavano. Bastava che Madame Arnoux lo sfiorasse con un dito e subito l'immagine dell'altra si presentava al suo desiderio, dato che pensava ad avere da quel lato prospettive meno remote. E viceversa, quando era in compagnia di Rosanette, se gli succedeva di commuoversi, era subito l'altra, il suo grande amore, che gli veniva alla mente. La confusione era favorita da certe somiglianze fra gli appartamenti. Delle due cassepanche che Federico era abituato a vedere un tempo in Boulevard Montmartre, adesso una abbelliva la sala da pranzo di Rosanette, l'altra il salotto di Madame Arnoux. I servizi da tavola erano nelle due case simili e si trovava persino, dimenticata su una poltrona, la stessa berretta di velluto. Inoltre, una quantità di piccoli regali, parafuoco, scatole, ventagli, eccetera, andavano e venivano dalla casa dell'amante a quella della sposa, dato che Arnoux non si faceva sovente il minimo scrupolo a riprendere all'una ciò che le aveva dato per offrirlo a quell'altra. Con Federico la marescialla scherzava su questi malvezzi. Una domenica dopo il pranzo l'aveva portato in anticamera per fargli vedere nella tasca del cappotto di Arnoux un cartoccio di dolci fatti sparire dalla tavola allo scopo evidente di farne dono alla famigliola. Il mercante s'abbandonava a giochetti che rasentavano la turpitudine. Per lui frodare il dazio era un dovere. A teatro non avrebbe mai voluto pagare. Col biglietto dei secondi posti pretendeva di intrufolarsi nei primi. Tutto questo non impediva alla marescialla di essere innamorata di lui. Un giorno, tuttavia, aveva detto: «Comincia proprio ad annoiarmi. Ne ho abbastanza. In fede mia tanto peggio. Me ne troverò un altro». Federico credeva che l'avesse già trovato quest'altro e che rispondesse al nome di Audrey. «Beh», disse Rosanette, «quello cosa c'entra?» Poi, col pianto nella voce: «E pensare che gli chiedo così poco io. Ma non vuol saperne quell'animale, non sente ragione. Le promesse sono tutt'altra cosa, si capisce?» Le aveva promesso persino un quarto degli utili delle famose miniere di Caolino. Non s'era mai visto niente, né di questo, né dello scialle di cashmere col quale la lusingava da 6 mesi. A Federico venne subito in mente di regalarglielo, ma Arnoux avrebbe potuto prenderla come una lezione e offendersi. Eppure era un buon uomo, anche sua moglie lo diceva, ma talmente matto. Thank you. Federico aveva concepito un'idea machiavellica. Gli venne in mente di commissionare a Pellerin il ritratto della marescialla, un ritratto a grandezza naturale che richiedesse molte sedute. Lui, Federico, avrebbe assistito a tutte e l'abituale mancanza di puntualità dell'artista avrebbe facilitato i loro tête-à-tête. Persuase dunque Rosannetta a farsi dipingere per offrire la sua immagine al diletto Arnoux. Quanto a Pellerin, si buttò avidamente sulla proposta. Quel ritratto doveva essere un capolavoro e situarlo tra i grandi. Passò in rassegna nella sua memoria tutti i ritratti di maestri che aveva visto e finì con l'optare per un Tiziano, pensando però di tirarlo su con qualche decorazione alla veronese. Si sentì battere il cuore quando Rosannetta, accompagnata da Federico, arrivò da lui per la prima seduta. La fece salire in piedi su una specie di pedana che sorgeva in mezzo al locale e, continuando a lamentarsi della luce e a rimpiangere il suo vecchio studio, prima le disse di appoggiare il gomito su un piedistallo, poi di sedere in una poltrona e ogni volta, mentre s'allontanava da lei e tornava indietro per correggere con un colpetto di pollice le pieghe della veste, la contemplava socchiudendo gli occhi e consultando a voce Federico. «Ah, ebbene, no!» esclamò alla fine. «Torno alla mia vecchia idea, la schiaffo là, da veneziana!» Cominciò a schizzare i volumi e aveva a tal punto l'ossessione dei maestri del Rinascimento che non riusciva a non parlarne. Ah, lei era fatta per vivere in quel secolo. Una creatura del suo calibro sarebbe stata degna di un monsignore. Rosannette trovava quei complimenti molto carini. Fu fissato il giorno della prima seduta. Federico si incaricò di portare gli accessori. Il calore della stufa aveva un po' stordito Rosannette e così tornarono a piedi, percorrendo Rue du Bac verso il Pont Royal. Rosannette guardava davanti a sé, a caso, facendosi trascinare un poco come un bambino pigro. «Ah, ce n'è di donne felici. Io sono fatta per un uomo ricco, decisamente.» Lui replicò bruscamente. «Uno ce l'hai, no?» sapendo che Audrey era noto come tre volte milionario. «Non chiedeva di meglio che liberarsene. E chi te l'impedisce?» E si sfogò in amari sarcasmi contro quel vecchio borghese parruccone, cercando di dimostrare che un simile legame era indegno di lei, che doveva romperlo. «Sì», rispose la marescialla come parlando tra sé. «Sì, è quel che finirò col fare, certo.» Federico fu rapito da tanto disinteresse. Arrivò a casa di cattivo umore. Issonet e Delorier erano lì ad aspettarlo. L'artista, seduto al suo tavolo, disegnava teste di turco. L'avvocato, con le scarpe infangate, sonnecchiava sul divano. «Siamo qui per il giornale», esordì Delorier. «Oh, bella, ci stai ancora pensando?» rispose Federico con tono svagato. «Certo che ci sto pensando». E spiegò da capo il suo progetto. Per trasformare il foglio in un giornale politico bisognava contare in partenza su una larga clientela e per questo era necessario decidersi a sborsare qualche cosa, un tanto per la carta, per le spese di stampa, per l'ufficio, a farla breve circa 15.000 franchi. «Non ho fondi», disse Federico. «E noi allora?» fece Delorier incrociando le braccia. Federico, offeso da quel gesto, replicò: «Non sarà mica colpa mia alle volte.» «Ah, molto bene. Abbiamo legna nel camino, tartufi in tavola, un buon letto, una biblioteca, la carrozza, tutte le comodità. Ma che un altro batte i denti a pochi centimetri dal tetto, mangi a prezzo fisso, lavori come un forzato e se la faccia con la miseria non sarà colpa nostra, vero?» Issonet, pieno di inquietudine e lanciandogli occhiate supplichevoli per cercare d'addolcirlo, disse a Federico, che stava voltando le spalle: «Ragazzo mio, andiamo, non rifiutarti di essere il nostro mecenate. Proteggi le arti!» Federico, in un moto di improvvisa rassegnazione, prese un foglio, vi scarabocchiò sopra alcune righe e glielo tese. Il volto dell'artista si illuminò. Passò la lettera a Delorier. «Faccia le sue scuse, messere.» Il loro amico pregava il notaio di fargli avere al più presto 15.000 franchi. «Adesso sì che ti riconosco», disse Delorier. «Parola di gentiluomo», aggiunse Issonet, «sei un valoroso, ti metteremo nella galleria delle persone utili». E l'avvocato di rincalzo: «È un'ottima speculazione, non ci rimetterai un soldo».